Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento salta a fra 2 settimane, cioè saltiamo Pasqua, in altre parole. Buone giornate. Buona giornata, auguri, e a garanzia della mia assoluta specchiata fedeltà democratica posso assicurarvi che il cane di Felice tutte le volte che mi vede cerca di azzannare anche me.